Inoltre, il Ministero degli Affari Esteri garantisce opportunità anche per stranieri in Italia e studenti italiani residenti all'estero. Per scaricare informazioni su tutte le borse di studio e paesi ospitanti, visitate il sito del Ministero esteri.it e curiosate nella sezione Opportunità. Abbiamo aperto questa puntata parlando dei NEET, parlando di occupazione e di occupazione a livello europeo. Se ne è parlato ieri a Napoli, c'è stata la prima tappa di un nuovo percorso lanciato dalla Commissione europea. Si chiama Dialogo con i cittadini, sono i commissari europei che vengono in mezzo alla gente per fare una chiacchierata, un dialogo, un dibattito. Ieri a Napoli la prima tappa, il tema era quello dell'occupazione, in Italia ci sarà poi una seconda tappa a Torino dove si parlerà di sicurezza e poi a Pisa dove si parlerà invece di risorse sostenibili e infine la festa dell'Europa a Trieste con il vicepresidente della Commissione europea Reding dove si andrà a disegnare, a delineare possibili visioni dell'Europa del futuro partendo da fatti presenti e partendo soprattutto dalle istanze dei cittadini. Per capire il significato di tutto ciò abbiamo con noi Alessandro Giordani, capo settore comunicazione, informazioni e reti, Commissione europea, rappresentanza in Italia. Ciao Alessandro, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico, ciao. Ieri c'ero a Napoli, una bella tappa, un bel clima, il palazzo che scende in piazza, e questa è un po' l'idea che ci sta dietro a questo desiderio di far incontrare i cittadini con i commissari. Sì, è una cosa relativamente innovativa che la Commissione ha voluto fare, che noi come Commissione europea in Italia stiamo organizzando, perché è appunto un dialogo diretto con i cittadini in cui i commissari europei, l'autorità europea che si sente spesso così distante ma di cui si sente così tanto parlare, come hai detto tu giustamente, scende tra la gente per la prima volta e organizza degli eventi che non sono degli eventi classicamente intesi con un palco, con uno speech, con un discorso magari precostituito senza la possibilità di un intervento da parte del pubblico se non qualche domanda finale come classicamente si intende, ma il commissario viene tra la gente e ascolta le persone, ovviamente relativamente alla tematica di cui si occupa. Ieri avevamo il commissario Andor a Napoli, e quale posto più significativo per parlare di occupazione e di quello che l'Europa può fare per l'occupazione come Napoli, e accompagnato dal sindaco che ha aperto le porte della città e della sua cittadinanza a un commissario che ascoltava quello che i cittadini avevano da dirgli, c'è stata un'ora e mezzo di dialogo molto innovativo per quanto riguarda la forma, ma anche molto simbolico, prima di tutto per il posto. Sappiamo che drammaticamente Napoli è quasi la capitale europea dell'occupazione, della disoccupazione, anche con i dati che abbiamo avuto ieri. E abbiamo percepito una voglia enorme da parte delle persone, soprattutto dei giovani che erano presenti, una fame non solo di partecipare, ma una fame di opportunità, una fame di connettersi con un mondo più ampio, che è quello dell'Europa, dove la generazione di giovani ha capito che le grandi variabili che determineranno poi la qualità concreta della loro vita ormai si decidono principalmente a livello europeo. Quindi abbiamo avuto, nonostante una bufera di vento e di pioggia che non era tipica di Napoli, abbiamo avuto una grandissima partecipazione e soprattutto una grandissima voglia di continuare a partecipare in questa maniera innovativa. E come dicevi tu, poi l'Italia non si fermerà a questo, ma ci saranno altre tappe come a Torino e a Pisa che porteranno poi questa trilogia di eventi, la chiamiamo, ad un evento finale, la festa dell'Europa a Trieste, che simbolicamente poi metterà insieme anche gli sloveni o i croati che da lì a poco entreranno nell'Unione Europea, per chiedere ai cittadini che tipo di Europa vogliamo. E lì c'erano anche il vicepresidente della Commissione Europea e auspichiamo anche altri commissari. Certo, ascoltiamo un breve passaggio, quello che ha detto ieri, nell'oltre ora e mezzo di chiacchiera, il commissario Andor. We cannot make the past mistakes again. To have a monetary framework without a strong social consideration, and that's why it's important that in the new debates about the genuine economic. Quello che Andor ha messo l'accento su una nuova politica monetaria che sia attenta anche a una preoccupazione sociale, quindi non rifare gli stessi errori del passato. E poi ha sottolineato l'urgenza e l'importanza dei fondi europei disponibili in molti paesi, Italia inclusa, che possano essere investiti soprattutto per aiutare i giovani nel modo più rapido ed efficiente. Ieri si è parlato molto di fondi europei, si è parlato molto di giovani, si è parlato molto di controlli e di progetti. Però Alessandro, al di là del tema specifico, che era l'occupazione. Ci sono state sotto traccia altre preoccupazioni che comunque i cittadini nel loro lavoro e nelle loro domande hanno evidenziato: la difficoltà di accedere alle richieste delle istituzioni, a volte proprio una difficoltà anche di comprensione al di là della lingua, ci si perde nella burocrazia e soprattutto anche credo un non orientamento su quelle che sono le competenze. A volte te la prendi col tuo sindaco ma senza sapere che c'è la regione di mezzo e che invece è l'Europa il tuo referente, quindi proprio voglia di capire, voglia di consapevolezza. Esatto, guarda, questo è forse uno dei dati più interessanti che è emerso dalla sessione di ieri, perché il discorso delle competenze è stato proprio quello su cui i giovani spesso hanno avuto le idee più chiare, ed è molto significativo che la generazione ultima, quella che sta entrando adesso nel mondo del lavoro, ha le idee più chiare su quello che si gioca in Europa rispetto a quello che si gioca sul piano nazionale, tant'è che appunto interloquivano direttamente col commissario per la prima volta dando modo, facendo capire che avevano capito che effettivamente il loro interlocutore, per molte variabili che determinano poi la reale creazione di posti di lavoro, era il livello europeo. Questo è stato molto interessante perché spesso con le generazioni precedenti la Commissione ha avuto spesso grandi difficoltà a far passare il messaggio che l'Europa ha un ruolo preponderante. Ormai dopo la crisi poi un'Europa che diventa sempre più intrusiva in senso positivo nelle sovranità nazionali per quello che riguarda la politica economica, la politica anche di sostegno all'occupazione, è assolutamente necessario saper dialogare a quel livello e sapere che le grandi variabili vengono da lì. Poi, come dicevi tu, c'è stato anche qualche grido di dolore, perché il dialogo con i cittadini è un dialogo in cui ci sono anche emergono anche le frustrazioni, le critiche rispetto a quello che l'Unione Europea fa, e una di queste che è emersa, come dicevi tu, è la difficoltà spesso a livello di bandi europei, ad esempio, di relazionarsi con qualcosa che è comunque molto complesso o diciamo proceduralizzato. E il grido di dolore spesso veniva da parte di alcuni giovani che si erano raccolti in un associazionismo di base per fare progettazione europea in terre difficili come quella di Napoli, e dicevano: ma è un controsenso che noi si debba chiedere a dei consulenti e pagare dei consulenti per poter capire le procedure di bandi, che dovrebbero essere direttamente comprensibili per i cittadini, altrimenti una parte delle risorse vanno proprio per quei consulenti per capirle e per decrittarle, che sarebbe ovviamente un controsenso. Questo il commissario l'ha capito bene e si è anche impegnato ad uno sforzo in questo senso, insomma. I dialoghi con i cittadini continuano nelle prossime tappe anche sul sito dialogocittadini.it, perché le domande, le istanze, le provocazioni, le critiche possono appunto essere inviate, e tutto ciò verrà mandato al gabinetto del commissario e dei commissari proprio perché possa essere trasformato in contenuti, infatti, e in proposte. Grazie davvero ad Alessandro Giordani, caposettore comunicazione, informazione e reti, Commissione Europea, rappresentanza in Italia. Ciao Alessandro, buon sabato. Ciao. Adesso ci fermiamo, un Europostit, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Il logo del patrimonio europeo lo scegliamo noi. Il marchio del patrimonio europeo contrassegna quei siti del patrimonio europeo che celebrano l'integrazione, gli ideali e la storia dell'Unione Europea. Stiamo parlando di siti archeologici, monumenti, paesaggi culturali o luoghi di rimembranza. L'importante è che questi svolgano o abbiano svolto in passato un ruolo significativo nella costruzione dell'Unione Europea e dell'integrazione comunitaria. Il marchio è gestito dalla Commissione Europea e verrà assegnato nei prossimi 3 anni da un comitato di 13 esperti indipendenti. La nuova versione del marchio ha bisogno però di un nuovo logo. La Commissione Europea ne ha selezionati 3, ma desidera che la decisione finale sia dei cittadini europei. Potete esprimere il vostro voto sul sito della Commissione Europea, aiutandola così in questa ardua decisione. Per visionare le 3 opzioni di logo e votare la vostra preferita, cercate European Heritage Label Logo sul sito ec.europa.eu/culture. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, le voci, le proteste, il sonoro di questa manifestazione che proviene dalla Grecia, la Grecia ancora al centro dell'attenzione della politica europea, è stato trovato un accordo in settimana per salvare, per tentare di salvare Atene, aiuti per 43,7 miliardi di euro, un taglio sui tassi sul debito, una boccata d'ossigeno reale, soprattutto qual è il polso della situazione, come è stato percepito questo ulteriore, ennesimo, reale aiuto dell'Europa. Per parlarne abbiamo invitato la giornalista freelance ed esperta di fatti legati alla Grecia, Vicky Markaki. Ciao Vicky, ben ritrovata qui all'Altra Europa. Guarda, sento che queste grida che abbiamo sentito rappresentano il come percepisce ormai il greco del ceto medio, che è diventato povero, molto più povero di quanto non lo era, qualsiasi nuova soluzione, la quale non indica strade per il rinnovamento e per gli investimenti. Ormai la Grecia ha una rete produttiva praticamente inesistente, c'è una disoccupazione, leggendo oggi i giornali, sul 57% tra i giovani. E allora, reali o non reali, gli aiuti diventano alla fine l'ennesimo aiuto, il quale sì, fortifica l'umiliazione del paese e dall'altra parte aiuta a vincere contro la politica, ma non contro la partitocrazia. Secondo me il grande punto interrogativo è questo: la Grecia oggi ha una classe politica o ha solo i partiti al potere? È una questione molto difficile, perché è vero che la democrazia greca era partecipata, sì. Era partecipata per interesse, era partecipata per ideologia, era partecipata perché la gente fino a poco tempo fa, secondo me, credeva alla politica. Ormai nessuno crede alla politica, ma vedono, perché lo vedono nelle piccole cose quotidiane o negli scandali che continuano a uscire fuori, che la vita politica, la vita comune non ha più potere davanti ai confronti dell'Unione Europea e della Troica, ma continuano a avere potere quelli che sono i partiti. Non lo so come è stato percepito per ognuno di noi, è stato sicuramente percepito come un attimo di respiro, ma più che altro dal potere, non dalla gente. La gente sa che fino al 2020 ormai non cambierà nulla per la sua vita, la quale è diventata una vita di stenti e di angosce, perché non è solo tiriamo la cinta, tiriamo avanti, c'è anche l'angoscia per il domani, e non l'angoscia per il domani dei figli, l'angoscia per il domani proprio. Devo dire che la grande differenza, vivendo tra qua e là, la grande differenza che uno avvisa è che l'Italia sta adottando delle misure molto simili a queste greche, ma le sta adottando da sola, le sta adottando gradualmente, e nel frattempo almeno si parla di produttività, di rinascita. Per la Grecia è il sesto anno in recessione. È veramente una cosa tragica, perché già non parlavamo di un'economia forte e fiorente, parlavamo di un'economia che cercava di trovare nuovi modi per esistere. Certo, quindi comunque c'è una sorta un urlo di dolore a prescindere. Adesso abbiamo sentito queste proteste, tu dici qualsiasi provvedimento, anche giustificato, anche utile, però c'è proprio una sorta di attacco a una classe politica che non dà prospettive, non dà visioni. È un po' questo lo stato d'animo del paese. Questo cavalcare la rabbia dell'alba dorata, che certo, sta diventando un partito a tutti gli effetti. Non è casuale che ancora oggi, a me personalmente, preoccupa di più l'urlo silenzioso di chi non partecipa nemmeno alle manifestazioni, perché non ci crede più neanche alla protesta. I greci erano molto politicizzati, forse anche troppo, poi sono diventati organo dei partiti che hanno portato l'economia a questo punto che l'hanno portata, perché in realtà nessuno può chiedere, secondo me, delle responsabilità al cittadino al quale hanno detto non ti preoccupare, ci sono i soldi della Comunità Europea all'epoca. costruisti e poi non li ha controllati. Lo Stato non ha mai controllato dove andavano i soldi dell'Europa, per esempio. Lo Stato stesso promuoveva delle cose che sapeva benissimo non sarebbero mai concluse. C'è una responsabilità dei cittadini, ma è molto più grande la responsabilità della classe dirigente, la quale ha insegnato ai cittadini di andare avanti senza pensare alle conseguenze. Ora gli chiede di pagare tutte le conseguenze. Grazie davvero a Vicky Marcacchi, come sempre, per la sua fotografia lucida e reale di quello che succede in Grecia. Ciao Vicky, alla prossima. Ciao e buon lavoro. E di Grecia ha scritto anche in questi giorni il corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore, Beda Romano, che è qua con noi. Ciao Beda. Buongiorno. Buongiorno. Hai scritto di Grecia e raccontato quello che è accaduto, però con te vorrei fare un salto successivo. Vediamo la Grecia, vediamo la Gran Bretagna, che è sempre lì, sto dentro, sto fuori dall'Unione, vediamo quello che succede in Spagna, vediamo quello che succede in Germania. La riflessione che in questi giorni anche ha spinto a prendere provvedimenti in prospettiva è: ma ha ancora senso tutto ciò? Si può veramente ancora parlare di unione con criteri, stili di vita così diversi, paesi con economie così diverse? Ma credo che in parte queste diversità spiegano la crisi, per certi versi. E in parte queste diversità, proprio a causa della crisi, stanno diminuendo. Mi spiego meglio. Sì. La diversità come tale è probabilmente una delle radici della crisi. La crisi finanziaria, la crisi economica che sta colpendo l'Europa da circa 3 anni è la crisi di una unione troppo diversa culturalmente. Alcuni paesi hanno capito esattamente che cosa significava partecipare a un'unione monetaria, hanno capito che partecipare a una grande regione valutaria con la stessa moneta avrebbe imposto di prendere delle decisioni economiche, di riformare la propria economia, di giocare continuamente sulla competitività e sulla produttività dell'economia. E questi sono i paesi fondamentalmente del nord dell'Europa, e poi ci sono altri paesi che per motivi culturali questo non lo hanno capito. E l'esempio più lampante è quello greco, ma credo che valga anche per altri paesi, a cominciare dall'Italia o dalla Spagna. Quindi ci sono radici culturali dietro alla crisi economica e finanziaria di questi anni. Al tempo stesso, come dicevo prima, la crisi sta avvicinando i paesi. E non li sta soltanto avvicinando da un punto di vista economico, perché sappiamo che molti paesi del sud Europa stanno mettendo mano alla loro economia per renderla compatibile con l'unione monetaria. Io credo anche che la crisi inevitabilmente sta portando a una migliore conoscenza dei vari paesi. No. So perfettamente che la crisi sta anche creando animosità e sta creando risentimento fra nord e sud, est e ovest, ma però credo anche che paradossalmente oggi noi conosciamo di più la Germania o la Grecia di quanto non la conoscessimo qualche anno fa, proprio a causa della crisi. Certo. E proprio in questi giorni si stanno studiando piani a breve, a medio, anche a lungo termine, proprio sul cammino di questa unione economica e monetaria, che questa probabilmente è la novità, come hai detto anche tu, dovrà prendere atto di queste differenze che ci sono. È inutile ormai pensare di appiattire tutto, no? Andando ad appiattire quello che succede, quello che stiamo vedendo. Beda, ma e con l'Inghilterra, lì a Bruxelles, cosa si dice? Stavo leggendo opinioni molto discordanti in queste ore, nel senso l'Inghilterra che se ne esca allora da quest'unione, o l'Europa ne ha bisogno, o per essere veramente unione deve entrare anche nella zona euro. Quali sono le posizioni, quali sono le voci formali ma soprattutto informali che hai colto? Ma la Gran Bretagna è in una situazione molto particolare. È entrata nell'Unione Europea negli anni 70 volendo trasformare l'Unione Europea in un grande mercato unico. Sì. E c'è riuscita, perché per molti versi, se il mercato unico europeo a 27 esiste, è perché c'è stata una forte pressione inglese in questo senso. Non credo che la Gran Bretagna abbia alcuna intenzione di entrare nella zona euro. Paradossalmente la Gran Bretagna è il paese che più insiste per un'integrazione della zona euro, e non sempre a proprio vantaggio, nel senso che la Gran Bretagna si rende perfettamente conto che la disgregazione della zona euro o il potenziale o la crisi perdurante della zona euro è un problema per l'Europa e per la Gran Bretagna, e quindi insiste per una maggiore integrazione, nonostante una maggiore integrazione sia probabilmente pericoloso per il futuro del mercato unico, perché se noi integriamo paesi a 17 sarà sempre più difficile evitare una segmentazione con gli altri 10 che sono fuori dalla zona euro ma che partecipano al mercato unico. Quindi la Gran Bretagna è in evidente difficoltà, e questo è il punto di vista inglese. Il punto di vista di Bruxelles e dei paesi della zona euro è, credo, fondamentalmente negativo, nel senso che percepiscono la Gran Bretagna come un freno a delle scelte più ambiziose da un punto di vista politico. Peda, un'ultima domanda più personale che di analisi economica. Tu racconti l'Europa da Bruxelles, poi spesso è anche l'opportunità di andarla a toccare, a vedere questa Europa nelle sue diversità. Che gap c'è tra l'Europa che si vive a Bruxelles e l'Europa reale? C'è consapevolezza di com'è l'Europa fuori dal palazzo, o c'è tanta distanza secondo te? Ma credo che il compito oggi di un giornalista che segue l'Europa è quello di ricordare quanto l'Europa sia cambiata negli ultimi 25 anni, direi. Non ce ne rendiamo conto perché la viviamo giorno per giorno e ormai non ci rendiamo più conto che possiamo viaggiare da un paese all'altro con dei biglietti che costano 30 euro e senza presentare la carta d'identità alla dogana. È un piccolo esempio, ma ho l'impressione che l'Europa ha fatto molti passi verso una maggiore integrazione. Evidentemente la crisi maschera questi progressi, però ho anche l'impressione che, bene o male, con enormi difficoltà e con enorme colpevolezze anche, i paesi si stanno, bene o male, avvicinando gli uni agli altri. E ho l'impressione che i giovani di oggi, i quindicenni, i ventenni di oggi, hanno una visione dell'Europa molto più positiva di quanto non ce l'abbiano persone molto più anziane. Sicuramente. Grazie davvero a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore. Buon sabato e buon lavoro. Ciao Beda, grazie. Grazie, arrivederci. Adesso ci fermiamo, un euro posti, delle informazioni per chi sta viaggiando, e poi torniamo per andare a fare l'Erasmus tra gli orsi. Europost-it. Progresso con un occhio alle risorse. Concorso per giornalisti in erba e nell'erba. Meno per meno fa più è il motto della 7ª edizione di Giornalisti nell'erba, il concorso di giornalismo ambientale per Under 29 organizzato dall'associazione Il Rifuso, in collaborazione tra gli altri con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, l'Agenzia ANSA e la European Space Agency. La limitatezza delle risorse non è un dettaglio quando si parla di evoluzione e di progresso tecnologico. L'essenzialità è quindi il macrotema di questo concorso. I partecipanti potranno poi scegliere un sottoargomento tra l'economia del contadino, l'economia del marinaio e l'economia dell'astronauta. Si può partecipare sia individualmente che in gruppo. Basta avere tra i 5 e i 29 anni di età. La cerimonia di premiazione si terrà nella seconda metà di maggio 2013, ma per presentare gli elaborati avete tempo fino al 15 febbraio 2013. Per maggiori informazioni visitate il sito giornalistinellerba.org. Abbiamo scelto la colonna sonora del film Into the Wild per introdurre l'Erasmus di Tommaso Trentini. Ciao Tommaso, ti piace come scelta? Ti riconosci un po'? Certo che sì, direi proprio di sì, insomma. Dove è venuta Tommaso Trentini? Tu sei di Ferrara, vero? Io sono di Rovereto Trento, studio Ferrara, sì, okay. Effettivamente. E, laureando in scienze geologiche, noi abbiamo parlato spesso di Erasmus, lo facciamo praticamente settimanalmente. Pare che, insomma, anche i tagli ventilati c'è lotta, però Si salverà, ne sono certo, il progetto Erasmus. Lo spero proprio. Perché è colonna portante della nostra Europa, quindi non sarebbe veramente un atto di masochismo totale buttare via questo progetto, comunque renderlo difficoltoso, quando invece andrebbe sempre più amplificato. Il tuo è stato un Erasmus assolutamente insolito. Ce lo presenti? Dove sei andato? Cosa hai fatto? Perché sei finito su un'isola deserta norvegese? Certo. Io ho partecipato a un progetto Erasmus Placement, ma ho partecipato al bando e quindi poi ho avuto la possibilità di sfruttare questo bando per andare all'estero a svolgere un'esperienza di tirocinio. E ho svolto questa esperienza svolgendo una spedizione scientifica assieme ad altre tre persone, due ricercatori norvegesi e un'altra studentessa Erasmus della Repubblica Ceca, e siamo capitati su un'isola deserta delle isole Svalbard a 78 gradi nord di latitudine, quindi ben oltre il circolo polare artico, diciamo. Quindi eri alle Svalbard. Esattamente. In quale periodo l'hai fatto? Ho svolto questo Erasmus nel periodo estivo di quest'anno e ho passato appunto 40 giorni alle isole Svalbard, di cui almeno un mese su quest'isola deserta, in condizioni diciamo molto into the wild. Cioè quando c'è il concetto di isola deserta è proprio quello, cioè isola deserta, eravate solo in quattro. Esatto, noi abbiamo stabilito un campo base il primo giorno che siamo atterrati con l'elicottero. Abbiamo costruito questo campo con quattro tende personali, due altre tende per il magazzino e la cucina, e poi siamo stati lì per un mese sostanzialmente in condizioni molto avventurose. Uh-huh. E lo studio cosa riguardava in particolare? Era stato chiesto all'associazione a cui ho fatto riferimento per il tirocinio, che era un'associazione norvegese, il Norwegian Polar Institute di ricerca. Era stato chiesto dal Ministero dell'Ambiente di rimappare geologicamente l'area, cioè di andare a vedere le rocce che c'erano nelle varie montagne e di cercare di capire come queste fossero messe nello spazio sostanzialmente. Ok. Tommaso, ma ci puoi far vedere un po' questo campo? Ci puoi far vedere quest'isola deserta? Ok, in attenda, ok, un mese, ma in quali condizioni? Beh, noi su quest'isola vivevamo a 5-6 gradi di temperatura, quando siamo arrivati avevamo la neve e noi avevamo questo campo che dava sull'oceano, eravamo nella parte più occidentale dell'arcipelago delle Svalbard, e la cosa fantastica era che in 200 metri si poteva passare dalla costa ghiaiosa a delle montagne alte 600 metri. E tra l'altro, oltre alla neve, c'erano dei grandissimi ghiacciai e quindi il panorama era qualcosa di spettacolare, veramente. Ecco, e come compagni di studio, orsi polari affamati, com'è andata la convivenza? La convivenza, per fortuna o per sfortuna, non c'è stata, nel senso che c'è stato un avvistamento un giorno e quello sì ci ha messo in apprensione, in quanto gli orsi polari, specialmente nel periodo estivo dove ci sono ghiacciai, appena trovano qualcosa insomma se lo pappano, e in questo caso noi eravamo ovviamente le prede prescelte e per questo motivo dovevamo sempre girare armati e questo ovviamente non era una cosa normalissima. Immagino, ho visto anche il campo era circondato da una sorta di recinto esplosivo, ho capito bene? Sì, ovviamente durante la notte, che ovviamente non c'è perché durante il periodo estivo ci sono le 24 ore di luce sopra il circolo polare artico, mentre dormivamo non potevamo ovviamente controllare ogni giorno ad ogni ora se ci fossero orsi nelle vicinanze o altre bestie, e quindi abbiamo messo questo filo di ferro tutto attorno al campo con allegati dei piccoli esplosivi che potevano avvisarci nel caso si fosse avvicinato qualche animale. E ci è capitato una volta, o anzi più volte, ci è capitato che delle volpi artiche, sentendo l'odore della carne, volessero avvicinarsi al nostro campo e hanno innescato involontariamente gli esplosivi, per cui di notte ci siamo svegliati tutti in apprensione, con i fucili e non è stato bellissimo, insomma. Immagino anch'io che sia stato un risveglio avventuroso. Tommaso, ma al di là dell'esperienza personale, unica, credo anche professionale, nel senso che per te che studi scienze geologiche, insomma, sia stata una bella opportunità. Invece dal punto di vista anche della convivenza europea, nel senso che eravate comunque teste diverse, provenienze diverse, certo. È un po' testimoni là nell'estremo nord di questa esperienza chiamata Erasmus. Ecco, come hai raccontato il tuo Erasmus come esperienza universitaria, come l'hai vissuta? Ah, io l'ho vissuta come esperienza ovviamente fuori dal comune, perché andare in certi posti ovviamente non può capitare tutti i giorni, ma al di là di questo, a livello lavorativo, penso di aver imparato molto di quello che potrebbe essere una mia professione in futuro, e questo non solo nei giorni alle Svalbard, ma poi ho finito il periodo di Erasmus a Tromsø, quindi in Norvegia, e in questo caso ho avuto a che fare anche con altri studenti, altri ricercatori provenienti da ogni parte del mondo. In questa associazione, di questo istituto, fanno parte anche dei giapponesi, dei cinesi, quindi è stata proprio un'esperienza molto multiculturale, veramente stupenda, che consiglierei a tutti, diciamo. Grazie davvero. Sul sito dell'Università di Ferrara c'è la tua storia raccontata, pubblicheremo il link sia sulle nostre pagine in Facebook sia su Twitter. Dormi tranquilla adesso, ancora senti qualche esplosione nella notte? No, no, per fortuna dormo tranquillo, con un pizzico di malinconia per non essere più ovviamente in quei posti meravigliosi. Ci tornerai? Spero proprio di sì, e mi è stato proposto dagli stessi ricercatori con cui sono andato quest'anno di tornare un prossimo anno. Ovviamente, come in tutte le cose, dovranno vedere il budget delle ricerche, se è possibile portare qualcun altro, certo. Insomma. Grazie davvero, ciao e buon sabato, ciao Tommaso, ciao ciao. Ciao, grazie a voi, grazie mille. Europost-it. Natale in Transilvania, arte e tradizioni per costruire l'Europa. Young Effect, associazione che si occupa di scambi internazionali, cerca partecipanti per lo scambio Aspettando Natale in Transilvania, che si terrà dal 6 al 14 dicembre nella città rumena di Campian. La tematica dell'attività sarà l'arte e le tradizioni legate al Natale nei vari paesi europei, ma l'obiettivo ultimo, come sempre, è quello della socializzazione tra giovani cittadini provenienti da diverse nazioni e l'abbattimento dei pregiudizi interculturali. Il tutto avverrà tra serate di svago, seminari, esercizi e presentazioni. Per partecipare basta avere tra i 18 e i 25 anni, scaricare il modulo di iscrizione e rimandarlo all'associazione promotrice. Visitate il sito youngeffect.wordpress.com. Radio24.it per riascoltare la puntata, Twitter l'account è @FedericoTaddio, oppure facebook.com/l'altraeuropa per trovare tutti i link relativi agli argomenti che abbiamo toccato oggi. Un grazie a Margherita Ina, Miriam Lucchetti, Giorgio De Luta, Luca e Peter Bescapè, e a voi per essere stati in nostra compagnia. Ancora buon sabato da Federico Taddia, ciao!